Adesso sì, ecco, te la pongo a te la domanda, che lo stanno chiamando al telefono. È una persona ricercatissima, il nostro Leo, veramente. Eccomi, allora, sono la sorella di Leo e sono pronta per essere intervistata. Oggi ve lo dirà Leo, si parla di un tema molto attuale in questa settimana. E eccolo qua, eccolo. Di cosa si parla quindi oggi? Parla di Sanremo. Applausi per Leo e per... oggi abbiamo scelto proprio un argomento importante, eh? Veramente importante. Oggi ci stanno chiamando tutti, incredibile. Va bene, va bene. E niente, niente. Cari amici che siete in ascolto, se ci siete, battete un colpo oltre che chiamare. Comunque, carissimo Leo, che dire se non mettere subito una bellissima canzone che poi ci racconterai, che è appunto la tua canzone preferita di questo Sanremo, giusto? La vuoi presentare tu? Sì, certo. È di Maneskin? La canzone di Sanremo, Leo, qual è? Creek Boom Boom. Di chi? Rose? Rose Villan, solo qui! Alla Marina Avanzata. Vai, solo qui! Sono qui a Marina Avanzata. Oh yeah! Non riesco più ad essere lucida. Il cuore parla e dice stupida. E ti rincorro per la strada anche se è vuota e buia. Se non mi importa di te, non mi importa di me, piove sopra una lacrima, perché ho bisogno di te, giuro stavolta è l'ultima. Ti ho fatto entrare nel mio disordine, senza di te non ho niente. Non ho mai avuto paura del buio, ma di svegliarmi con accanto qualcuno. Per me l'amore è come un proiettile. Ricordo ancora il suono click, boom, boom, boom. Senti il mio cuore fa così, boom, boom, boom. Corro da te sopra la mia, vrum, vrum, vrum. Prendi la mira, baby, click. Che dentro un mare nero che si illumina, sei capace a trasformare il male in musica. E ti ritrovo ovunque vada, nelle canzoni in autostrada, perché sei la mia condanna e la cura. Senza di te non ho niente da perdere. Non ho mai avuto paura del buio, ma di svegliarmi con accanto qualcuno. Per me l'amore è come un proiettile. Ricordo ancora il suono click, boom, boom, boom. Senti il mio cuore fa così. Sopra la mia, vrum, vrum, vrum. Prendi la mira, baby, click. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. E giuro che se l'universo dovesse finire stanotte, ti seguirei sull'Everest con tutte le ossa rotte. E ti ritrovo ovunque vada, nelle canzoni in autostrada, dove c'è elettricità. Ti ho fatto entrare nel mio disordine. Senza di te non ho niente da perdere. E non ho mai avuto paura del buio, ma di svegliarmi con accanto qualcuno. Per me l'amore è come un proiettile. Ciao, buonasera. Allora, prima di tutto, ho scelto questo brano perché mi piace, e perché mi piace, l'ho ascoltato la prima volta in televisione e mi è piaciuta, e inoltre, visto che mi è piaciuta a guardare, mi è piaciuta anche a suonarla alla batteria. Con chi? Con Luca, il mio maestro. Oh yeah! ti è piaciuto questo effettino, grande Leo. E quindi questa canzone l'hai proprio suonata proprio fresca fresca oggi col maestro di batteria Luca, perché ti piace proprio questa canzone. E l'ho suonata bene usando lo stesso ritmo della batteria. Wow! Ok, ok, ci piace, ci piace. Cos'è che ti piace però di questa canzone? Beh, la voce della cantante. La voce della cantante, lo dici con questa voce calda. Ma hai sentito che fratellone molto caliente che c'hai, Ele? Sì, lui è appassionato di musica, poi soprattutto se le cantanti sono femmine. Chissà perché, chissà perché. Bene, caro Leo, ma adesso entriamo proprio con questa canzone, entriamo proprio nel clou di questa puntata. Ricordiamo, per chi si fosse appena connesso, della Marina Avanzata, no? Salutiamo tutti i marini. Beh, i marini intendiamo quelli che vivono al mare, eh. Salutiamo tutti i marini. Salve. E salutiamo tutti gli avanzati, quelli che avanzano in giro. Sì, oppure le pizze avanzate. Ok, pure le pizze avanzate. Ecco, un'altra delle tante passioni di Leo, che è la cucina, ma ne parleremo in un'altra puntata. Oggi parleremo di musica, e quindi è arrivato il momento di intervistare la nostra super ospitona. Caro Leo, ti passo il microfono e vai con... ma sei contento di intervistare la tua sorellona? Sì, davvero molto. Non lo so, mi piaceva questo. E si parte allora, vai. E allora, vai con la prima domanda. Bene, allora, cara sorella mia, hai appena visto Sanremo? Sì, l'ho visto, ma non tutto. Allora, aspetta, devi mettere dove ci sta questa pollino verde. Ah, ok, sì, l'ho visto, ma non tutto. Ok. Ho visto solamente due puntate, quella delle cover, cioè la penultima, e poi l'ultima, la finale. Ok. Hai risposto tutto. Allora, secondo te qual è la tua preferita di canzone? La mia canzone preferita è quella che ha vinto, di Angelina Mango, La Noia. Molto bene. Hai capito, quindi proprio gli piace tantissimo questa canzone. E la sai che facciamo, Leo? Come abbiamo fatto con te adesso? Noi la andiamo a risentire, così ci rinfreschiamo un po' le idee, e poi ne parliamo con la sorellona. Che ne pensi? Ok. E gli chiediamo perché gli è piaciuta soprattutto il testo. Andiamocela a sentire, solo qui. Marina Farcita. Marina Farcita, solo qui. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso a testa alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età. Eppure sta una posta. Zero drammi, quasi quasi cambio di nuova città. Che stare fermo a me mi viene la noia. Soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una cosa inutile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della notte. Inciampare almeno fermo la noia, quindi faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare, ah, la noia. Total! È la cumbia della noia! Solo qui alla Marina Avanzata! Siamo tornati in questo programmone favoloso, giusto Leo? Sì! Ecco, ci cascano anche i quaderni dove abbiamo anche le domande. Fantastico, vabbè, ma è il bello della diretta, eh? Non l'avevamo ancora detto. Che bella la diretta! Già, infatti, allora Elena, che cosa ti piace? Esatto, cara Elena, torniamo proprio a bomba, a bomba, a bomba. Non ce l'ho l'effetto della bomba, lo scaricherò, ma... Guarda, c'ho questo effetto qua invece, aspetta, vediamo un po' se lo trovo. Devo ancora, non c'ho ancora la... Oh, è partita una puzzetta, era una puzzetta, scusa. È la cosa che più si avvicina alla bomba che c'ho. Bene, detto ciò, cara Ele, io volevo leggerti il pre-ritornello 2, cioè la parte finale di questa canzone, perché mentre l'ascoltavamo dicevi: sai che non l'ho ascoltato con attenzione il testo, però la parte finale dice: muoio perché morire rende i giorni più umani, perché effettivamente la morte è l'unica cosa che accomuna tutti gli esseri viventi. Vivo perché soffrire fa le gioie più grandi. E anche questa è una frase importante, giusto Leo? Soffrire fa i giorni più... Già, guarda, ti sei illuminato, soffrire, gioie. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Che ne pensi di questo testo, Elena? No, è un bel testo, è un contrasto di... come si chiamano? Non ossimoro, non lo so la parola tecnica. Comunque sono tutti termini contrastanti... come appunto la corona di spine, la festa, il soffrire, la gioia, quindi no, molto bello, poetico. Poi non so se l'ha scritta lei il testo, ma chi l'ha scritto, molto bravo, un applauso a chi l'ha scritto. Un applauso? Aspetta, un applauso. Un applauso, signore! Andiamo avanti. Avanti alle domande. Vai. Allora, io ne faccio l'ultima perché veramente questa è un po' più spigolosa. Perché la nostra Elena, che cosa sta studiando all'università, Leo? Quello che ho sentito è psicologia. Psicologia. Lady Gambesius, chi conosce la nostra Lady Gambesius avrà un futuro da psicologa. Sì. Sì. E quindi ti faccio questa domanda spigolosa, volevo dire, però ok, ti volevo fare questa domanda psicolosa, ovvero dal punto di vista psicologico, no? Che cosa ci vedi in questa frase che abbiamo appena letto? Ecco, come la potresti interpretare, diciamo, questa giovane 23 che più o meno alla tua stessa età, Angelina Mango, forse poco più grande, però insomma, in questo testo che cosa ci vedi? Ti faccio questa domanda come se fossi un professore universitario, eh? Magari ti stanno ascoltando i professori, chi lo sa? Magari sì, ecco, no, non voglio sbagliare, però insomma si può interpretare che delle note negative ci sono, però magari le ha volute mascherare con insomma dei termini un po' più carini come la festa, la gioia, pure la musica sotto è molto allegra e quindi magari appunto non voleva troppo annoiare il suo pubblico con un testo pesante, ma voleva esprimere la sua sofferenza, ecco. Fantastico, fantastico, interessante. Ma torniamo a noi, caro Leo. Ci sono altre due domande da fargli, no? E lei ha una domanda in realtà, se non sbaglio, eccolo. Esatto, è questa qui. Allora, prima di quella cosa là, della domanda là, c'è pure questa domandina qui. Vai, Leo. Qual è il cantante che non ti piace di meno? Allora, il cantante che mi è piaciuto di meno, ma in particolare la canzone, è quella di San Giovanni, che sinceramente non mi ricordo nemmeno il nome, non è degna di essere ricordata. E, no, mi stava un po' antipatico lui, sinceramente, poi è arrivato pure ultimo nella seconda classifica che hanno fatto, quindi non mi piace. E perché? Ah, ok, e perché? Era molto moscia come canzone e lui in particolare non lo sopporto molto. Ritengo che se la tiri un po' troppo. Ok, capito. Bene. Allora, qual è cover preferita al mondo? Preferita al mondo non lo so, però quelle di Sanremo... mi è piaciuta molto quella con i Bunker e Pino D'Angiò. E è stata veramente bella. Non me l'aspettavo. E allora, sai che facciamo, cara? Ti facciamo questo regaletto e poi magari, non so, tu hai altri impegni, mi sa, però se vuoi rimanere ci fa super piacere. Magari ce l'andiamo a sentire questa canzone che ha appena proposto Elena, giusto? Ma certo che sì. E poi ce la teniamo per un'altra mezz'ora e andiamo in palestra con lei. Tutti insieme in palestra, sei contenta Elena? Contentissima. Però adesso è il momento di sentire un po' di bella musica. Vai, solo qui. Di nuovo. Di nuovo, non lo devi leggere, lo devi imparare. Come ci chiamiamo? Marina Farcita. Marina Farcita, vabbè, ormai siamo di Marina Farcita. Al posto, solo qui hai Marina Farcita. Beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea. Che idea. Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Ma quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Ma quale idea? Intanto lei non passa e ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Ho un'idea, potrei avvicinarmi così con la scusa di pagarle due drink. Dice ma come sei vestito? Sì lo so che io non sono proprio il tuo tipo. Poi mi seguo lentamente, mi ruba il drink ed esce con il suo fare indifferente. Sa che una come lei da me vorrebbe le stelle, però non sa che sono un perdente. E no, no, niente di originale. Non so di cosa parlare, se di soldi, se di cani, se di settimane al mare. Non mi ha neanche guardato, come whisky se n'è andata. Però quando è ripassata mi è venuta una pensata. Se dice così, no? Oh yeah. E poi, che idea. Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Ma quale idea? È maliziosa ma sa da tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Ma quale idea? Attento lei, lunga la sua, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. Scusa, in fondo scusa, tu che dai? Chissà se tornerai o non ci vedremo più. Chissà se ci sarà un'altra occasione per noi. Chissà se riuscirò a dimostrarti chi sono. Ma ora, ora balla. Oh yeah, balla. Ok. Ok. E allora ragazzi, balliamo insieme ai Bunker. Che idea. Mi piace. Non vedi che lei non ci sta? Ma quale idea? È maliziosa ma sa trattenere a bada un super burro buffo come te. Oh yeah. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? Attento lei, lunga sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. Scusa, in fondo scusa, tu che dai? Ehi. Oh yeah, che idea! Che idea questa canzone! Solo qui! Di nuovo. Dai, Farcita. Alla Marina Farcita. Niente, ormai non è più Marina. Siamo nati Marina Avanzata e moriamo Marina Farcita. Dotti, tranquillo, Marina Farcita, al capo. Marina Farcita, guarda, lo cambio. Ormai. Marina Farcita. Vabbè, ci piace. Ci piace la Marina Farcita. Buona, buona, sempre buona. La Marina Farcita è sempre buona, ragazzi. Bene, bene. Ma che bella canzone, che bella cover. Sai chi è Pino D'Angiò, Leo? Ma chi è? Diciamo, è uno dei più grandi DJ italiani della storia d'Italia. Lui è quello che ha fatto "Che idea, ma quale idea?" E addirittura gli hanno fatto una cover, pensa, pure i grandi Flaminio Mafia, che hanno fatto una cover tutta reppata tipo questa. Infatti questa canzone in particolare è una mescolanza. Ma come ti sbadigli così nel nostro programma? Però c'è qualche domanda di... c'è una domanda, come... Bravo, ci hai fatto tornare in pista. Chiediamogliela allora, perché gli piace questa canzone alla sorellona? Non intendevo quello, infatti. Io intendevo qual è l'idea. Qual è l'idea? Ma quale idea? Come risponderti se non così, Leo? Lo sai che non lo so nemmeno io. Io le canzoni purtroppo me le ascolto per i ritornelli e per come suonano, poco per il testo. Ah, ok. Ah, ok. Guarda, non è una cosa inusuale. Io, guarda, spendo una lancia in tuo favore, perché io pure quando ero piccolo mi sentivo solo perché mi piaceva la musicalità di André. Poi sono stato fortunato che mi sentivo di André e quindi ho imparato a memoria tutte le canzoni. E quindi, diciamo, poi ho fatto pure un po' di attenzione, un po' più di attenzione ai testi. Però c'è tempo, sei giovane. Ecco, ripetiamo, per chi non lo sapesse, no? Per chi si fosse connesso adesso, stiamo alla Marina Farcita, ok? E oggi, prima puntata, primo ospite, chi è venuto? Leo? Ok, tu sei, diciamo, lo speaker di punta di questa puntata. Però l'ospite chi è? Elena. E chi è Elena? Mia sorella. Ma la tua sorella, ma è solo tua sorella o è qualcosa di più? È la tua sorella? Gemella. È incredibile, la tua sorellina gemella. Ma che bello, cosa che facciamo di più? E io, la tua sorellina gemella. E allora ragazzi, quando si festeggia il compleanno? E soprattutto, quando siete nati ragazzi? Quando siete nati? Diteci un po'. 2004 e... Dice sempre a me, infatti, quando gli chiedono quanti anni hai quando sei nato, gli risponde sempre come mia sorella, ma se qualcuno non mi conosce o non sto lì in quel momento, rimane così, come mia sorella. E quindi oggi tocca fare lo sforzo. Sei nato nel 2004, ma che giorno siete nati? 2004, 28 luglio. E quindi siete del segno della? Beh, io leone. Tu leone, e tua sorella gemella secondo te? Anche lei lo è. E un applauso quindi a tutti i leoncini del mondo. Sì, un applauso ai leoni, carattere forte. E andiamo. È un roar questo. Sarebbe un roar. Guarda, ci hai lanciato un'altra canzone da fare. Bene, però tu hai altre domande da fare alla tua leoncina sorellina, giusto? È quello che hai scritto nel quaderno? No, altre proprio. Te ne hai preparate altre, mi pare. Io non mi viene in mente. Non gli vuoi chiedere qualcos'altro? Per esempio, oggi per lei stiamo parlando di Sanremo. Vuoi chiedergli qualcosa a lei che ha visto? Ci ha detto prima che ha visto due puntate. Vai, chiedi. Sai qualcosa di Sanremo? Oddio, come domanda è un po' vaga, però so che è questo festival della musica che è 74 anni, mi pare, che lo fanno proprio nella città di Sanremo. Nel teatro dell'Ariston, e so questo, ogni anno ci sono cantanti o gli stessi, spesso diversi, c'è un vincitore. Tu pensi che tuo fratello gemello qui presente è contento che si vada a vedere dal vivo o a cantare? Penso di sì. Molto bene. Ah, ecco, deve farti... attenzione. Adesso mia sorella vi saluta. Ok, posso fargli una domanda pure io prima che ti saluta? Perché praticamente ci sta questa storia che i gemelli si capiscono, hanno una specie di intesa. Avviene pure tra di voi? Non siamo da due rosicoti, siamo gemelli identici. No. La ripropongo a te la domanda. No, Leo intendeva che non siamo omozigoti, siamo gemelli diversi, da due sacche diverse, ma secondo me poco cambia. No, secondo me non, la mia risposta è no. Spesso pure mi chiedono, ma se uno sta male, l'altro sta male pure? Non penso, non mi sembra. Ecco, non siamo connessi così tanto. Però può essere che con questa radio ci sarà una connessione che scoprirete solo nel tempo. E dunque, caro Leo, che dire se non fare un salutone alla tua sorellona? Non funziona? Sa. Sì, funziona. Ah. Allora, c'è una connessione che la voglio bene. E lei vuole bene a me, è questa la connessione. Esatto. E comunque adesso ti saluto Elena e anche Matteo. Anche io vi saluto, ciao Leo, ciao Matteo, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. È stato un piacere per me essere vostra ospite e niente, quando volete richiamatemi che io sono a disposizione. Ecco. E allora... Grazie. Qui c'è anche mia madre che sta parlando con la cosa. Hai capito, c'è anche mamma. E quindi che dire, tra poco potremmo invitare anche lei, Intanto la salutiamo con una base sotto pazzesca, roar di Katy Perry, Il ruggito, ti piace? Sì, molto. E come fa, come fa? Guarda che cantanti, dote sonore pazzesche. Ok, allora andiamo. the fire, yes into the fire, the I am the champions, I miracolo sarà dimmi, bravo il nostro leoncino che ruggisce, che meraviglia, solo qui a Marina Farcita. Ah, Marina Farcita, grande Leo, grande Leo. Bene, quindi tra poco avremo una nuova ospite. Però io, prima che arrivi l'ospite, volevo sentirmi con te una canzone sempre tratta dalla serata delle cover, perché Elena ci ha fatto sentire una canzoncina. Io ne ho preparato un'altra per te e ne volevo parlare con te. Lo sai perché? Perché ci sono in Italia, e poi ne parliamo insieme, italiani che nascono qui però non vengono considerati italiani. Quindi volevo chiedere qual è il tuo parere, e te lo volevo chiedere ascoltando insieme a te questa canzone bellissima di Gali, questa cover di una sua altrettanto bella canzone, Solo Qui. Non c'è solo quel cantante, ci sono altri cantanti come Victoria Justice. Ok, non so chi è, non me lo dici, eh. Solo Qui a Marina Avanzata. حزن خذاني ضعوة مشي في بالك برد كدوم كي عليا ولات تلوم بروح خيالي نحلق حتى كان غطات غيوم حتى كان زهري ما يقوم فعين علي خانو منسي صافي معاك بالنية وغير قولي لينا مدري لعين مرات خنية دي ماري بينا بينا شي ما هو محا ما يبينا بينا لا يدوم الحال ميديترانيو ترامت الميديترانيو il volto familiare di un estraneo orfano come un nuovo ate immagina il corano nella radio non parlan bene di noi al notiziario maledetto quel giorno allo stadio ora testa in giù tutto è più chiaro seconda mamma sei la mia seconda mamma non c'è figlio che non sbagliano tu sogni l'America io l'Italia la nuova Italia Come va a finire si sa già Devo stare attento mannaggia Se la metto città poi mia madre mi va Perché sono ancora un bambino Un po' italiano un po' tunisino Lei è di Puerto Rico Se succede per Trump è un casino Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra Il cesso a qui sinistra il bagno in fondo a destra Dritto per la mia strada Meglio di niente ma che nada vabbè Tu aspetta sotto casa se non piace a mamma Tu non piaci a me Mi dici lo sapevo ma io non ci credo Mica sono scemo C'è che la mente è chiusa ed è rimasto indietro Come il medioevo Il giornale ne abusa parla dello straniero Come fosse un alieno Senza passaporto In cerca di dinero Io mi sento fortunato Alla fine del giorno Quando sono fortunato Wow, è la fine del mondo Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua. Oh, mi dice ascolta tua mamma, oh, un, due, tre, sono già là. Hey! Oh, quando mi dico c'è metà. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano, un italiano piano vero, italiano vero. Grande Gatto, sono qui, eccoci tornati. Ma che bel momento, vero Leo? Dove sei? Dove è andato Leo? Dove è andato il nostro Leo? Un bel momento. Eccomi qua. Eccolo qua, il nostro campione. Insomma, ti è piaciuta questa? Intanto sono arrivati gli ospiti che presenteremo tra pochissimo con un sonoro rullo di tamburi per, di quelli proprio super potenti. Sono tre ospiti, esatto, c'è un ospite gattino peloso, ecco, della famiglia Felix, perché prima abbiamo messo anche di sottofondo Roar, no? Abbiamo messo di sottofondo una canzone che parla di ruggiti, è arrivato anche un grande parente felino che ruggiva, E le sai mia colava, ma comunque sì. Esatto, esatto. Senti, e quindi ti è piaciuta la canzone di prima che parlava di questa di questo rapporto, no? Che c'è, lui si sente un italiano nonostante è metà tunisino e metà italiano. Che ne pensi di questa cosa, di questo argomento? Che mi piace? Ti piace, ti piace. Sempre caustico. Intanto l'ospite di prima, la grandissima ospite di prima se ne va in palestra. Un grande applauso al nostro ospite. Ciao, qui sentiamo già delle vocine, Bene, bene. Allora, Leo, quindi sei d'accordo su questa cosa? Voltiamo pagina e adesso, dopo un rullone di tamburi, presenterai i nostri nuovi ospiti. Sei pronto, Leo? Sei pronto. E allora, i prossimi ospiti sono... i miei genitori e Frezza, che se lui è andato... Buonasera. Buonasera a tutti. Eccoli qua, mamma e papà. Beh, iniziamo dal proprio presentarli, vai. Questo è mio padre. Ciao. Mia madre. Ciao. E Fritz. Miau. Fantastico, fantastico. Bene, e quindi benvenuti mamma e papà, che il nostro pubblico non sa come si chiamano, quindi dovremmo pure dire come si chiamano, giusto? Alberto Marino e Rosellassaro Sedita. Se... Okay. Ok, giusto, giusto. Cari mamma e cari papà, questo programma fatto da Leo si chiama Marina Farcita. Marina Farcita, ha scelto questo titolo. Marina Farcita. È un piatto, se magna quindi. Se magna sempre, bene, sono contento. Bravo Leo, ottima scelta. La ricetta com'è? A base di? Di Marina? Sì, e vi voglio bene a tutte e tre e anche a loro. Ok, anche al pubblico, anche al pubblico. Allora, dai, un altro sonoro. Però, allora, che volevamo chiedere a mamma e papà? Noi questa prima puntata volevamo, hai scelto tu di parlare di che cosa? Beh, di Sanremo, ma visto che abbiamo già ascoltato il parere di Elena, vorremmo sapere qual è la vostra. Il nostro parere? Sì. Beh, dai, è una domanda interessante. Cosa poter dire di Sanremo che ancora non è stato detto, Leo? Passiamo con la palla alla consorte. Allora, io l'ho seguita abbastanza, diciamo tutte le sere. Sono molto soddisfatta dell'esito finale, quindi Angelina, top. Bella voce, bel brano, spacca veramente. e sono contenta perché è molto giovane, perché è molto umile come ragazza, molto brillante, e poi penso che possa rappresentare la canzone italiana anche all'estero, quindi sono molto molto contenta. Però poi risentendo le altre alla radio me ne sono piaciute anche altre, però contenta. Magari ce ne sentiamo qualcuno. Quindi è molto giovane e brillante come te. Molto giovane soprattutto e brillante come me, sì. E quello che ho detto. Mi ci vedo molto. Fantastico, magari dopo ne mettiamo qualcun'altra, perché appunto mamma e papà sono tornati dal lavoro, sono dei grandi lavoratori, e appunto non sanno che la tua sorellona è stata intervistata anche lei, eppure lei ha scelto Angelina Mango come sua canzone preferita, e quindi da giovane psicologa qual è, hai capito, ha fatto anche un'analisi. Però noi abbiamo la fortuna di avere una grandissima psicologa qui accanto a noi, giusto? Sì. Qual è il suo nome da supereroina? La di Campi Sostetta, Elena. Elena, mamma invece? Lei non ce l'ha, ma... Psicologella, non era psicologia? Sì, sì, lei. Vabbè, mi ammazzavo se ci fossi io che mi ricordo tutti i nomi. Ok, meno male. E quindi psicologella, la mamma, e quindi ti tocca, cioè se ti va, Allora... appunto Elena ha fatto un'analisi della parte finale di questo testo, ci ha visto un sacco di cose e lo volevamo rileggere insieme a te. Ce lo legge il nostro Leo. Guarda un po' Leo, eccola qua la parte finale del pre-ritornello. Leggilo un po' per mamma, che così poi ci dà una spiegazione. E se fossi tu? Prima l'ho fatto io, ora tocca a te. Non fa il pigrone tu. Io sono sempre così. Lo so. Vai, leggi qua. Ok, i nostri radioascoltatori si stanno addormentando. Dai, forza. Meglio che fallo tu. Niente, si sono addormentati, è andata così. Va bene, dai, lo leggo io. Muoio perché morire rende i giorni più umani. Vivo perché soffrire fa le gioie più grandi. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Hai capito che testo? Intenso, veramente. Io cosa ci vedo? Ci vedo... riflette secondo me un vissuto di una persona, in questo caso è un adolescente probabilmente, che vede nei momenti più bui, più tristi, più di sofferenza, più cupi, bravo Leo, una bellissima parola questa del disagio, diciamo il motivo per andare avanti, nel senso che solo attraverso la sofferenza e i momenti più brutti puoi superarli e trovare anche un senso alla tua vita. Ma non so se è quello che lei ha voluto dire, francamente, ma ci vedo questo. Molto interessante, grande mamma, grande mamma. Te lo ascolterai nella meravigliosa, nel meraviglioso podcast che ci andremo a sentire subito dopo questa puntata. Però adesso è il momento di sentirci un'altra canzone di Sanremo prima di salutarci. E quindi noi abbiamo messo prima Click Boom Boom, che è la canzone preferita da Leo. Poi abbiamo messo Angelina Mango. Ve ne viene in mente qualcun'altra di tutte le 30 canzoni? Annalisa, ottima scelta. Allora andiamocela a prendere, Annalisa. Dov'è? Senti, lo sai, non me la ricordo. Eccola. Sinceramente non ce la ricordavamo il titolo. Ma perché ti piace questa canzone? Vabbè. Ma perché è una ragazza brutta che si è saputo comunque far valere nel mondo della musica, e quindi ha fatto tutta una serie di canzoni che sono stati dei tormentoni per dell'estate, Mon Amour, tante altre, adesso non me le ricordo, insomma. Diciamo che non lo sai. Non lo so, però cos'è tempo? Si vede che lui all'interrogazione andava bene. Perché è una ragazza brutta, una ragazza purtroppo che si è dovuta fare largo nella vita attraverso i suoi meriti artistici. Ecco. Che è noto un piccante. Va bene, allora andiamocela a sentire, solo qui. Fita. Alla Marina Farcita. Mi sveglio ed è passata solo un'ora. Non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa, ah, ma quanto male fa. Come morire, ma non capita. Sinceramente tua, tua voce, tua, tua, tuo, tua, tua. Olè, e siamo tornati, eccoci qua alla Marina Farcita. Tanto ti piace farcita. Eccoci qua, anche noi. Oh, ma vi è piaciuta questa canzone? Sentite qua il pubblico, Ma giustamente terza, giustamente terza, si è arrivata terza, è vero? Terza, sì. Sempre terza sta Annalisa, perché mi pare che andò in un altro Sanremo, arrivò te. Diciamo che la sindrome della terza. Già. Non ce la fa. L'eterno secondo, la sindrome della terza. La sindrome della terza. Ecco qua. E infatti, diciamo, il secondo, forse ce ne andremo a sentire come finale. Ma tu prima ci stavi dicendo, Leo, che volevi chiedere una cosa prima di salutarci a mamma e papà, giusto? Chiedici una figlio. Sì. O figlio. Vi voglio bene, solo questo. E anche Under Pressure. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. And the present, let's do deep in the sound, so celebrate and then and don't. Mi hai ispirato, cioè, hai ispirato per la prossima puntata. Potremmo fare una puntata doc sui Queen o su tutte le bande musicali che tu canti, balli. Tipo, mi è venuto in mente un Michael Jackson che ci hai fatto una volta. Ti ricordi? Michael Dannata, sì, sì. E quindi, che dire se non salutare mamma e papà? Vai, Leo, salutali come si deve, con tutta la tua carica, con tutta la tua energia. E saluta soprattutto tutti i radioascoltatori. E digli che, oh, ci vediamo mercoledì prossimo, eh? Esattamente. Ciao, mia madre e mio padre, miei genitori. E anche a voi. Wow! Dai, che siete in ascolto. Ciao da tutti buona noi. Serata, buona arrivederci, serata, arrivederci e alla prossima. E allora, a mercoledì, con la Marina Farcita, solo qui! Woo! A mercoledì! È un piatto, ma comunque sì! E vai! Ciao a tutti! Yeah, yeah, yeah, yeah. L'ultimo due stelle che stanno precipitando. Tu stai vestendo con sapevo lo che ti ha sfuggiato. Va bene, insieme, e te già mi sperati sta per sempre, insieme, e te, no, no, no, come si fa, no, no, no, a te scuda, per me no, non posso fare, ingestiva te la fanta, a felicità, quando costa si esorda una buona carta, che spiegate di ma parla, non l'hai pensato mai, che all'inizio la storia, era già fine la storia per noi, oggi la ci sta guardando. Quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te, picciamo se inizia una giovane, si può destare da incontrare. E se vuoi pensare a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso, non posso fare nient'altro. E per me, tu per te, e per me, tu per te, e per me, tu per te. Tu mi intrappola, abbracciandomi, pure oriavola, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama, come può volare senza le no. È passato tanto tempo, era l'ultima volta. Ramanato pochi tempo, per l'ultima volta. No, no, no, no, come si fa? No, no, no, a te scuda, per me no, non posso fa. Non l'hai pensato mai, che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Io ci stavo a dare quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo se inizia una giovane.